Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Prendete una piccola città inglese del Lancashire nel nord-ovest dell'Inghilterra. Quell'Inghilterra nobile, un po' decadente, a tratti male odorante, che mischia il verde rurale con il grigio dell'industria. Metteteci a fianco un grammofono che graffia un vecchio disco jazz. Non il jazz sperimentale piegato un po' su se stesso, in cui gli strumenti viaggiano su corsie diverse, ognuno alla ricerca del proprio Eldorado. E più quel jazz da cabaret, da intrattenimento, su cui spesso indugia una candida voce femminile. Poi portate tutto in strada e mischiatelo con i marciapiedi, i fumi dei tombini, gli odori dei negozi di bottega, con l'indolenza dei giovani fannulloni e la rabbia degli emarginati senza speranza. Infine calate lentamente il tutto nel pentolone degli anni Ottanta, alla fine delle ideologie, alla nascita dell'edonismo e i suoni dell'elettronica che invadono le discoteche. Il risultato sarà una musica. Non solo. Il risultato sarà una musica che costringerà ogni singola cellula del vostro corpo a ballare e a tenere il ritmo. È il funk, signori. Il funk con lo stile del protagonista di oggi, J.K., cuore pulsante dei Jamiroquai. J.K. ha vinto la sua sfida, senza alcun dubbio. Già perché nessuno si sarebbe aspettato che una tale esplosione di ritmo potesse provenire dai fumi dei pub inglesi, con le loro moquette sporche, le loro pinte di birra e l'olezzo che ti si appiccica al naso e ai vestiti. J.K. ha vinto perché è uscito dal pub e si è messo a girare per strada e ne ha studiato i rumori, i ritmi, fino a farli suoi. Senza meta, senza una vera casa. Quando esci e non sai dove tornare, la vita assume contorni diversi. Magari riesci a trovare qualcuno con cui parlare, ma non sempre è l'interlocutore che vorresti avere a fianco. Quando perdi un fratello gemello, come è successo a me, pensi sempre che manchi qualcosa in quello che ti circonda. Nella mia vita c'è sicuramente un anello mancante. Io non ho fratelli, non ho sorelle con cui parlare dei miei problemi. J.K. ha dovuto fare così. Ha dovuto cavarsela da solo, un po' perché il suo gemello è mancato dopo soli 5 mesi di vita, lasciando un vuoto incolmabile. Un po' perché non ha saputo che faccia avesse il padre naturale fino a quando non ha compiuto 30 anni. E un po' perché la madre, cantante jazz che amava esibirsi prima nei locali e poi in TV, lo ha costretto a viaggiare spesso, con tutta la fatica che viene a galla quando devi conciliare da sola una famiglia e un mestiere duro. So politicians, this time, I think you better keep your distance. E così la casa, per J.K., assume i contorni ordinati e geometrici degli alberghi che frequenta per seguire la madre, con i loro minibar, il personale ostentatamente gentile e la chiave sempre da restituire ogni volta che si esce. La soluzione non può che essere una: crescere per strada, farla diventare il proprio salotto, il proprio bagno, la propria stanza da letto. È quello che farà il leader dei Jamiroquai per cercare di mettere ordine nella testa e seguire quel suono che sente dentro, ma che è ancora privo di contorni nitidi. Avevo questo amico che si chiamava Ilam. Ogni tanto ci mettevamo lì e provavamo a fare un po' di musica insieme, utilizzando una drum machine. Era solo questo, sedersi e provare a fare un po' di musica. È lì che ho cominciato a interessarmi a questa cosa e a capire che era ciò che volevo fare. Però c'era un problema ben più grande da risolvere, ed era trovare una band. Un problema molto più difficile che trovare una drum machine da comprarsi. In ogni caso, sì, è verso i 16 anni che ho cominciato a pensare che la musica fosse ciò che volevo fare. La musica di un brano, nella maggior parte dei generi musicali perlomeno, è composta da un certo numero di spartiti impilati uno in fila all'altro, che tendono ad assomigliarsi nella struttura, ma che hanno sempre inizi diversi. La musica di J.K. inizia con un amico, una sedia e una drum machine. Sono gli unici momenti di pausa di una vita passata a camminare per le strade, siano quelle di Stratford, nel quartiere Ealing, a ovest di Londra, dove J. si reca spesso con la madre, o di qualsiasi altro paese o città in cui è costretto a spostarsi. La vita di strada è piena di tentazioni, la maggior parte delle quali fa pugni con la legalità. Se poi hai uno spirito un po' ribelle e decidi di andare via di casa, puoi facilmente perdere il controllo. Succede così quando hai la rabbia a farti da navigatore. Magari si cede a qualche furtarello, si cerca di arrotondare vendendo un po' di droghe leggere, eccetera, eccetera. Anche per J.K. è così, ma nel momento in cui la porta dell'oblio si sta per spalancare, ode una musica che lo risucchia dalla strada e lo riporta in carreggiata, direzione casa, o come cavolo si chiama il posto dove vive sua madre. Questa musica è il segnale che aspettava da tempo. È la musica dei Brand New Heavies, la band che insieme agli Incognito, i Galliano e i Corduroy sta infiammando i locali di Londra. Una musica nuova, mai sentita prima, si chiama Acid Jazz e incorpora elementi di funk e soul alla musica elettronica, integrandoli in un suono dal ritmo inesorabile, capace di risvegliare i corpi e gli arti più assopiti. È esattamente quello che Jason stava cercando. Poi succede quello che succede spesso quando si raccontano storie di questo genere. Un provino che va storto, la rabbia, la delusione, il desiderio di voler dimostrare qualcosa, un incontro. E poi la svolta. E J.K., per quanto si sforzi di esserlo, non è diverso dagli altri in questo. Quindi, come da copione, si presenta un provino per entrare nei Brand New Heavies, gli stessi che gli hanno aperto gli occhi. Ma qualcosa va storto e non se ne fa nulla. E come per incanto seguono la reazione, la riflessione, la chiamata a raduno di qualche amico con cui suonare e infine l'incontro, quello che porta alla svolta. Certo, tutto ci saremmo aspettati tranne che di doverci spostare nell'Oceano Pacifico, ma è lì che effettivamente nasce il didgeridoo, quella specie di flauto ricavato dai rami di eucalipto usato dagli aborigeni australiani. Uno strumento certamente strano, poco diffuso, poco moderno, eppure a J.K. piace. Gli piace perché è diverso ed è a suo modo imponente, elegante. C'è un suo grande amico che lo suona, un amico con cui Jay si diverte a scorazzare con lo skate sui marciapiedi di Londra. Si chiama Wallis Buchanan e, come avrete intuito, è il primo magnifico destino di oggi. Wallis è un tipo fuori dal comune. Come altro definire uno che si appassiona a uno strumento usato da degli indigeni all'altro capo del mondo? Il primo didgeridoo di Wallis è fatto da tubi di plastica e ha un suono leggermente diverso da quelli originali, un po' più artificiale. Ma poco importa che non sia perfetto, perché a Jason quel suono lo stimola un sacco. Tanto che chiede a Wallis di suonarlo nell'intro di una canzone. La canzone che Jay ha scelto per dare vita al suo progetto. Il brano si chiama When You Gonna Learn ed è l'esordio dei Jamiroquai sulla scena. Un esordio destinato a lasciare il segno. When You Gonna Learn, in particolare, era una sorta di risposta alle domande che ci ponevamo guardando la TV. Pensavo che se la situazione non fosse cambiata subito, sarebbe stato troppo tardi. Le parole mi uscirono molto in fretta, non ci vollero più di 20 minuti. When You Gonna Learn è il pezzo che non ti aspetti. Non solo per l'intro di Wallis Buchanan, e neanche per il groove regolare e trascinante su cui la voce inconfondibile di Jason si adagia perfettamente. Non basta neppure sottolineare il testo sincero, profondo e spietato che Jason gli ricama sopra in poco tempo. When You Gonna Learn diventa definitivamente un pezzo completo in tutto e per tutto, non appena il video è pronto. Girammo il video in America e il video venne censurato. Sì, semplicemente censurato. E questo perché andai da Greenpeace e presi un bel po' di materiale fotografico, roba pesante, roba che io trovavo sbagliata. E quindi mi dissero, guarda, non possiamo mandarlo in onda, sembra di vedere una festa nazista in questo video, non possiamo trasmetterlo. Eccoli qui, i primi Jamiroquai, eleganti, innovativi, sofisticati e corrosivi. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Sono tutte qualità che non cesseranno mai di esistere, neppure il successo riuscirà a cancellarle del tutto, neanche il cambio dei membri della band. Ma mentre ci si poteva aspettare che J.K. si lasciasse ipnotizzare dal groove e dai ritmi cadenzati dell'acid jazz, molto meno scontata è l'ideologia ambientalista e umanista che aggiunge ai suoi lavori. Mi piacciono i paesaggi di campagna, soprattutto nei giorni in cui splende il sole. Sai, l'acqua nei ruscelli che scorre, i rumori della natura, la gente che se ne va tranquilla, che chiacchiera cercando di godersi il tempo. Sì, è questo quello che mi piace. Non c'è dubbio, J.K. è davvero un tizio strano. Gli piacciono le macchine da corsa, è un ambientalista convinto, ama gli aerei, la fisica quantistica, i cappelli strani. Indossa con la stessa eleganza una tuta da ginnastica e un abito firmato. Ha stile, come si dice in questi casi, ed è questa proprietà che lo rende diverso dagli altri. Questa qualità è la musica avvolgente che basso, batteria, chitarra e tastiera mettono al servizio della sua voce. Senza dimenticare il didgeridoo di Wallis, sempre a disposizione per qualsiasi evenienza. Nel 1993 tutto questo viene pigiato dentro a un album grazie alla Sony, che sfila il gruppo dalle mani della Acid Records, l'etichetta indipendente che aveva prodotto il singolo When You Gonna Learn. Il risultato sarà Emergency on Planet Earth. Get closer to you, to you, to you. I want to get closer to you now. L'esordio di Jason e soci è una bomba, e non solo per le vendite che svelano l'apprezzamento immediato da parte del pubblico. Emergency on Planet Earth si arrampica sulle pareti del jet set musicale con il suo miscuglio unico di funk, soul e jazz elettronico. Lo fa rischiando, con pezzi come Blow Your Mind, che dura più di 8 minuti, o Too Young to Die, più di 6. Ma è un rischio che svanisce sotto i colpi inesorabili dell'ugola di Jason, che è libero di dare sfogo anche al suo modo incantevole di ballare. Il nome Jamiroquai, una parola che unisce uno stile, il jamming, alla filosofia, quella degli indiani irochesi, si fa largo tra gli scaffali dei negozi di dischi e nelle classifiche, attirando l'attenzione di critici e ascoltatori. E il mondo ha un motivo in più per ballare. I magnifici destini. Quando tu metti su una chitarra ritmata un po' funky, puoi mettere insieme tutte queste cose in un gran pezzo, capito? Non c'è musica migliore di questa. Tu puoi fare tutti i tuoi... Ma il risultato sarà... Capito? Non è necessario che sia troppo preciso. Non ce n'è bisogno. Non deve essere troppo dettagliato. E poi quello che serve è questo. per arrivare a questo. È una cosa diversa. Siamo a metà degli anni 90 e il mondo ha appena imparato la lezione di J.K. Mettete una chitarra funky, una linea di basso che la sorregga, una batteria che non molla neanche per un istante e una tastiera elettronica a smussare gli angoli e rimarrete senza fiato. È la ricetta segreta dei Jamiroquai, la band che proviene dalle strade della Gran Bretagna, voluta, sentita e creata dal suo leader Jason a sua immagine e somiglianza. Il gruppo spoglia l'acid jazz dalle sue contorsioni, per ripensarlo più pimpante, più dinamico, alla portata di tutti. Fin qui tutto secondo logica, ma J.K. con la logica ci ha sempre fatto a pugni, fin da ragazzino, e così, mentre tutto e tutti spingono verso la produzione del secondo disco, lui tergiversa, indugia, prende tempo. Beh, sai, il punto è che con questo mestiere è un mestiere molto diverso dagli altri. Tu crei, in pratica crei dal nulla, non c'è niente su cui basarti, non c'è una traccia di quello che dovresti fare o di quello che la gente vuole. Devi solo radunare i ragazzi e spremere le meningi davanti a un foglio bianco. Jason non è uno che ha paura. La vita di strada ti toglie questo tipo di sensazione. Forse sarebbe più giusto chiamarla diffidenza. Intorno a lui c'è qualcosa che non lo convince. È vero che il primo album ha riscosso tanti successi, ma è pur vero che è sorto qualche problema. Un po' per i contenuti, un po' per il carattere di Jason stesso, poco incline ai compromessi. Sia quel che sia, lo stallo prende il sopravvento, il secondo disco rimane sospeso. In questi casi, oramai lo sappiamo bene, l'unica soluzione è un magnifico destino. Il primo lavoro di Al Stone è stato il direttore di hotel, l'hotel, la casa di Jason. Se non è destino questo. Poi, fortunatamente, Al capisce che a lui gli hotel non piacciono e si dirige verso il mondo della musica per diventare produttore. Quando si imbatte in Jason nasce subito una sintonia tra i due. Al è un tipo alla buona, un easy going, direbbero gli inglesi, ed è un gran lavoratore. Quello che fa è dare una scrollata alle tentennanti spalle del leader della band e aiutarlo in studio nella messa a punto delle voci e dei mix. Di colpo, tutte le nubi si diradano e il cowboy è libero di poter volteggiare nello spazio. The Return of the Space Cowboy finalmente esce, a 2 anni di distanza dall'esordio, ed è la conferma che tutti, non solo Jason, non solo la band, non solo Al e Wallis, tutti aspettavano. È la conferma che c'è spazio per del funk sincopato e delle buone idee, c'è spazio per lo stile e l'innovazione, c'è spazio persino per delle tematiche impegnative in mezzo a tutto quel ritmo. Ma soprattutto è la dimostrazione che anche i ragazzetti di strada possono stare nei salotti buoni. La collaborazione con Al Stone continuerà per un bel pezzo, come giusto che sia quando ti trovi a discutere con un amico di musica e nella maggior parte dei casi sei d'accordo con tutto. Per tutto il resto non c'è l'ombra di un problema. La soluzione per Jason è fatta di poche, piccole regole. Devi trovare le parole giuste, con la voce giusta e il giusto feeling. Il mio lavoro è quello di ricavare il tempo adatto e mettere tutto in una buona sensazione. Altrimenti quello che ottieni è... No, assolutamente. Capito? Si tratta di mantenere questa sensazione in tutta la struttura del brano. Ed è il modo giusto per ottenere le cose migliori. A un certo punto lo show comincia ed è un vero spettacolo. Trovato il feeling, messa su la baracca con delle buone fondamenta, come per magia la musica si sprigiona e la danza di J.K. si trasforma in una marcia trionfale, inarrestabile. Come il rombo dei motori che Jason ama tanto, la carriera dei Jamiroquai prende il via e lo fa schizzando con gli pneumatici sull'asfalto. Nel 1996 i Jamiroquai danno alla luce Traveling Without Moving, il loro terzo album di studio. E l'accelerata decisiva. C'è ancora Wallis a far vibrare il proprio didgeridoo e Al Stone è sempre lì in studio a dare il suo contributo. L'album riscuote un immediato successo. è il segno della maturazione del gruppo, è il picco più alto di tutti quei suoni che Jason ha cominciato a radunare da ragazzino per poi mischiarli sapientemente con il passare del tempo. Come si dice spesso in questi casi, il disco rappresenta la loro definitiva consacrazione. Se vuoi dimostrare di essere davvero un grande e di meritare la tua sedia nell'Olimpo del mondo della musica, c'è un solo modo per farlo: conquistare il mercato americano. È così, almeno per la musica moderna. Non che questo tolga il sonno al nostro Jason, lui è troppo occupato a godersi la vita secondo i suoi schemi per soffermarsi su certe cose. Ma è pur vero che, e di esempi se ne potrebbero fare tanti, c'è sempre qualcuno che oltre le note nelle canzoni ci mette altro. Un messaggio, uno scopo, se non una missione. E Jason fa parte di questa categoria. Il mercato statunitense è certamente un'opportunità per continuare a potersi permettere un certo stile di vita e qualche supercar in più. Ma è anche una sfida per dimostrare che il mondo può essere guarito a suon di funk. Proprio così è il momento di un altro, inevitabile, magnifico destino. Non sappiamo perché J.K. abbia scelto Jonathan Glazer per dirigere il video di Virtual Insanity. Forse gli fu imposto dalla Sony o magari se l'è trovato lui da solo durante una delle sue scorazzate. Quello di cui siamo certi è che mai scelta fu più azzeccata. Jonathan è un regista che ha quasi sempre lavorato nel campo della musica e degli spot commerciali. Solo pochissimi film. È abituato a racchiudere tutta la sua sapienza in 3-4 minuti. E Virtual Insanity sono poco meno di 4 minuti di autentica delizia. Basso, batteria, chitarra e tastiera si sincronizzano dopo una breve intro in un tempo lento ma brillante, che culla e allo stesso tempo incita a ballare, permettendo a Jason di poterci cantare e ballare sopra con leggiadria. Glazer non si lascia sfuggire l'occasione e completa il quadro con un video ipnotico, innovativo ed elegante. E il tutto si trasforma in un piccolo capolavoro. L'idea originale era quella di creare questo ambiente scorrevole, come in una sorta di aeroporto, no? E poi farci muovere le cose su e giù. Poteva funzionare, ma poteva anche essere un gran casino. Altro che casino. Il video è una perla. J.K. si muove leggero all'interno di una stanza semivuota dall'aspetto asettico. I pavimenti e le pareti scivolano come se fossero un nastro trasportatore, portando in giro i due divani della stanza. Poi ci sono animali e persino del sangue. Mentre balla, Jason lancia il suo grido d'allarme contro le contraddizioni e le evoluzioni di un mondo che sta andando alla deriva. E funk, jazz ed elettronica si trasformano da generi a mezzo di comunicazione. Agli MTV Video Awards sarà un trionfo, ma questo è solo un dettaglio. I magnifici destini. Sai, quello che voglio dire esattamente è che è difficile prendere un brano e dargli una forma. Se il brano non funziona dal principio, non basta dargli una lucidata. Se invece non è imprigionato, fin dall'inizio puoi mettere il beat dentro la forma, aggiungere altre cose. È un po' come fare una zuppa. Se ci metti degli spaghetti di riso, un po' di cipolla, qualche erba e ci aggiungi anche qualche altro ingrediente, allora lo stai arricchendo di gusto e questo scrivere canzoni. Una canzone come una zuppa, non l'avessimo mai sentito prima. Ma quando di mezzo c'è J.K., le cose assumono un aspetto diverso, esattamente come la sua esistenza. Dopo la consacrazione, dopo il successo, la vita di J.K. cambia, per molte cose in meglio. Lusso, donne, motori, droga, tutto secondo copione. E più lui si sforza di trattarle come un dettaglio superfluo, più il caos intorno a lui aumenta. È un vortice in cui vengono risucchiati la Sony, con cui non scorrerà mai buon sangue, il suo amore per l'ambiente e quello per le macchine che fanno a pugni, la celebrità e il desiderio di privacy, l'eleganza del suo stile e la prepotenza di certi comportamenti. Nella foto che ritrae Jamiroquai, poi, la sagoma di Jason è sempre più ingombrante. Anche la musica cambia, senza spostarsi però dal suo ambiente naturale, lo spazio. A Funk Odyssey, l'Odissea Funk, esce guarda caso nel 2001. L'album è un punto, in diversi modi. È un punto e a capo per quel che riguarda la band. La formazione originale, infatti già privata del bassista, si squaglia letteralmente, lasciando da solo il suo capo. E così diventa un punto interrogativo per il futuro. Ma più di ogni altra cosa, A Funk Odyssey è un punto esclamativo. È il disco di funk moderno per eccellenza. E questo secondo alcuni dei più grandi interpreti del genere come Bootsy Collins e Jill Scott Heron. E la conseguenza è che, come per magia, diventa un punto d'incontro. Nel mirino di Jason, infatti, entra il più grande di tutti, Stevie Wonder. È un legame strano quello che lega il cantante britannico al vecchio Stevie. Fin dai suoi esordi, infatti, J.K. si è visto più volte paragonato all'americano, un po' per la voce, un po' per il genere che suona. Paragoni che non sempre contenevano termini lusinghieri. La verità è che, scomodo o no, il sogno di suonare insieme a lui Jason ce l'ha sempre avuto. E il suo status a un certo punto glielo ha concesso. È successo una volta a Londra, nel 2006. Poche immagini, un solo live, e a tutti è rimasta l'acquolina in bocca. Qualcuno poco tempo fa ha buttato lì che i due prima o poi faranno un intero tour insieme. Ci sembra il minimo, visto che Stevie Wonder è il quarto e ultimo magnifico destino di oggi. J.K. è tornato di recente a farsi vivo con un album. Lo ha fatto dopo qualche anno di silenzio. Un silenzio necessario. Non sopportava più i rumori di sottofondo, persino quelli dei suoi amati alberghi. Neanche ha approfittato per darsi una ripulita. Il disco si intitola Rock Dust Light Star. Se qualcuno avesse dei dubbi, vi consigliamo di ascoltarlo. Può cambiare la band, possono cambiare le fidanzate e le macchine, può modificarsi il volto e si può scegliere un altro cappello. Persino il genere può essere diverso, ma feeling e groove rimangono sempre gli stessi. Il modo migliore per capire J.K. è vederlo esibirsi dal vivo, per ammirare il suo canto e il suo ballo che si uniscono spinti dal ritmo degli strumenti. Un misto di movimenti sinuosi e passi sincopati con le mani che affettano l'aria e le ginocchia che si ribellano alla fisica. Una specie di breakdance a cui il leader dei Jamiroquai sottrae tutti gli angoli spigolosi e le interruzioni brusche, finendo per renderla simile alla carrozzeria delle supercar di cui ama circondarsi. Tra 100 anni magari non ci ricorderemo di J.K., magari saremo costretti ad andare a cercarlo su qualche libro, in qualche filmato. Ma sicuramente ogni volta che un suo brano verrà trasmesso, ci verrà voglia di ballare, di seguire il ritmo e di godere di quel sound unico e travolgente che ha saputo creare. Freaking